Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. Ma sono mollo, quale mollo? Ci mancherebbe, se sei mollo non fai questa attività qua. Ricordatevelo, questa è la più dura al mondo. Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È chiaro che non si incita, ma se ti arriva uno in camera da letto alle 3 di notte al buio, devi fare, devi chiedere scusi, lei che intenzione avrebbe? Mi spiega se ha un bastone, un coltello, un fucile, una pistola, ha fatto bene. Te lo giuro, ho rifiutato. Cioè, legittimo, ci vedi, non è che tu vieni a casa mia per portarmi un presente per sentire se io sto bene o sto male. Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Bisogna usare una difesa proporzionata, quindi come ha già detto qualcun altro, il rapinatore non era armato, quindi io al suo posto avrei cominciato a sparare in aria e avrei cercato di non uccidere il rapinatore. Per quanto riguarda quelli della Lega e quelli come lei, signor Santanchè, siete presenti quando avviene questa situazione, poi lasciate la persona nell'oblio. È stata una follia! Bisogna fare un corso per usarla la pistola, certo. O no? No, ma è ovvio, noi non siamo negli Stati Uniti che uno va in un negozio e compra una pistola. Per avere la pistola in Italia deve avere delle autorizzazioni. Deve venire da te, deve... gliela regali tu. Tu sei già un pistola di natura. No, fermi. Può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia. Vabbè, cari amici, da due giorni sono tutti esperti di pistole e pistola. Era buon anno che dà del pistola, che non so se al sud si capisce, cioè, dare del pistola a uno è più al nord, no? Come dire, sei un pistola. Sempre di te. Sei un pirla, si direbbe a Milano, non lo so, una roba del genere. Vabbè, tutti esperti di pistole, sparare, non sparare, ha sparato qui, ha sparato là, gli è venuto in camera da letto, non è vero, guarda che era sulle scale, gli ha sparato dall'alto, ha fatto bene, ha fatto male. I politici da talk show, quando poi accadono queste cose, c'è Librandi di Scelta Civica, continua a dire che doveva sparare in aria e chiamare le forze ma porca miseria, le forze dell'ordine, venite, boom boom, l'ho incontrata per la vita. Ah, mamma mia, ragazzi, disse, vieni a casa mia. Cosa mai potevo fare? Che dobbiamo fare, ragazzi? Qui sono le 6:32 minuti, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, c'è Peter Bescapè in regia, siamo pronti per una nuova edizione di 24 mattino. Voi che state facendo, cari ascoltatori? Non state sparando, questo almeno me lo auguro. 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi, come sapete, e siamo qui, Teresa, no! Non mi sparare, Teresa, merda! Teresa, mi ti prego, non sparare! Allora, apriamo il Parlamento, dai. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi, grazie. Il Parlamento è il bar più libero del mondo, in cui si può dire ciò che si vuole dire. Intanto saluto il direttore che torna, il direttore di oggi, Umberto Brindani. Buongiorno, direttore, come va? Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Tutto bene. Non stiamo sparando. No. Tranquilli. Al limite si possono sparare cavolatine, ecco, questo sì, cavolate, questo sì. Quello è lecito. Allora, oggi, caro direttore, c'è un nuovo ingresso al Parlamento, sono molto felice perché è colei che insegue i politici e invece è stata inseguita da noi, è stata braccata, è colei che per la gabbia di Paragone sulla 7 va a inseguire tutti i politici. Allora, mi appassiona il caso e porto razzi in giro per le vie del sesso umano. Ah, ma poi quando andò a prostitute con razzi. Monica Raucci, buongiorno. Sì, vi odio. No, perché, perché ci odi? Dai, cioè, questo è l'esordio. Le prime due parole di Monica Raucci è vi odio. Così, buongiorno. Come sta? Ma tutti. Sì, io sto facendo un sogno bellissimo. Ah, e cioè? No, non si può dire. No, vabbè, però, non si può dire. Non si può dire. C'ho tutta una vita solo erotica, solo onirica praticamente. Ah, va bene, esatto, e quindi voi me l'avete così. Quindi così, brutalmente. Potete dire un paio di boiate così e poi io prendo il caffè e tra di voi... No. Però questa con Razzi, vogliamo sentire, ma davvero hai portato Razzi a prostitute? Ma sì, ma si può fumare in radio mentre sì, uno sì, parla? Sì, si può fumare, si può fumare, si può fumare. Si può anche drogare? No, come drogare? No, cioè voi non mi drogate? No, assolutamente. Avete detto il contrario però. Assolutamente no, mai. Sì, vabbè. Posso mettere la parola buona anche per brindare? Mai, vero questo? Bravissimo Alessandro, mi hai detto nel pessimo. Fate tutti perbenisti. Facciamo i perbenisti. Se Monica Raucci insegue i politici, ma chi è il politico più fastidioso da inseguire? Ah, io ho tutto quanto una diatriba con la Ravetto che mi odia. La Ravetto, perché? Sì, non lo so perché. Ah sì, cioè in realtà lo so, perché una volta l'ho vista uscire da Montecitorio, poi l'ho vista tornare, c'era la votazione, l'ho vista tornare con delle buste di un noto negozio. È andata allora a fare la spesa. Gli ho detto, ma questo... lei si è incazzata, ha cominciato a urlare, è da dentro, io sentivo tutto, ho registrato, ha cominciato a urlare contro i commessi che io dovevo... Ah, ha chiamato la polizia perché io la stavo molestando. Effettivamente insomma. Esatto, e lei mi odia. Hai disturbato lo shopping, diciamo. Io invece voglio fare pace con lei. Ogni volta vado là e dico facciamo pacetta, ma lei non vuole. Però devo dire che questo è un mestiere, Brindani, tu che ne hai viste tante, è un mestiere molto nuovo, quello di inseguire i politici. Cioè, se io fossi un politico diventerei anch'io furibondo al terzo inseguimento. Ma che vuole lei? Ma che cosa vuole? Sì, è molto nuovo ma anche molto praticato, devo dire che Monica è bravissima, ma insomma è una dei tanti che ci provano, no? Da sempre, sì. Da qualche anno la TV si è specializzata in questa specialità, appunto, no? Scusate il gioco di parole, rompere le scatole ai politici. Certo. E però devo dire che darei un suggerimento, perché forse inseguire i politici è più facile che inseguire personaggi dello spettacolo, i quali, lo dico per esperienza, sono circondati da questa cosa terrificante che sono uffici stampa che ti impediscono qualunque contatto, per cui suggerirei a Monica magari in un prossimo futuro di provare a inseguire qualche cantante famoso, qualche attore, per farci un po' godere, molestare altri, non solo i politici. Molesta qualcun altro, Monica? Molesta? No, ma guardate che voi non avete capito una cosa, che io non avevo capito quando mi mandò Paragone all'inizio. Io non sapevo niente di politica. Improvvisamente mi disse: tu vuoi fare politica? Dico: no, non ne so niente. Cioè, benissimo, quello, benissimo. Allora, sei il profilo ideale. E adesso io non posso raccontarvi le gaffe che ho fatto, altrimenti Paragone cioè non lavoro più da nessun'altra parte all'inizio. Però insomma, fu molto faticoso all'inizio. Io avevo una forma di rispetto per la politica, nel senso che poi c'è anche ancora adesso, perché c'è una politica buona, e quindi li inseguivo. Adesso poi ho capito il meccanismo, adesso sono quasi loro che inseguono me. Perché che succede? No, succede questo, che a un certo punto io non ho contatti con gli uffici stampa e non ho contatti con i politici, non prendo neanche quasi un caffè con loro questa è una buona cosa. A parte con Razzi, che Razzi. Io vi racconterò perché per convincere questa cosa ci ho voluto un po'. Però all'inizio era complicato, invece adesso io chiamo gli uffici stampa dei minori, i cosiddetti peones, che sono un mondo stupendo, secondo me, su cui uno dovrebbe fare dei format, e gli dico: guarda, tu lo sai, io li prendo per il culo, non c'è problema. Quindi questi vengono volentierissimo, cioè, pur di avere, bene o male, purché se ne parli, esatto, purché ci sia una visibilità. Io ho capito che è esattamente come il cafone al dita con spia, no? No? Per cui la gente continua a farti fotografare, avete visto le foto che mangiano, pur di farsi vedere, ma com'è possibile? Pur di farsi vedere, insomma, il politico una sua visibilità la deve anche avere. Comunque è interessante, insomma, adesso ci racconterai qualcosa. Prima però, allora, vogliamo tornare dal caso da cui siamo partiti. Insomma, è pieno di articoli questa vicenda, di questo spa, tutti che hanno una sua teoria. Non so, Brindani, tu hai una tua teoria su quello che è successo di questo signore di Vaprio Dadda? Allora, si possono fare discorsi generali, però questi li lasciamo ai politici, perché poi la destra si schiera da una parte, la sinistra in questo caso non si schiera, con grande difficoltà, tanto per cambiare, sono divisi al loro interno. No, a me piacerebbe sapere cosa è successo veramente, perché devo dire che comunque la si pensi, c'è una grossa differenza tra la prima versione che è stata in qualche modo accreditata, cioè che questo signor Siciliano abbia trovato una ombra nel buio della casa che gli puntava addosso qualcosa, questa è la prima versione, invece quello che sta venendo fuori, sempre che sia poi la verità o solo una seconda verità, e cioè che questo albanese che fu espulso 2 anni fa e quindi regolare in Italia, eccetera, sia stato in realtà colpito dall'alto in basso mentre era fuori sulla scala esterna. Ma sì, pare che fosse sulla scala esterna, però adesso io non lo so, il procuratore... No, c'è una differenza. C'è una differenza dal punto di vista della legge, per alcuni non c'è una differenza, nel senso che, voglio dire, stava per entrare per fare una rapina, ecco. No, voglio dire che c'è una differenza tra quella che sembrava una reazione emotiva dettata dalla paura o dal terrore... E quella che invece potrebbe sembrare una specie, lasciatemelo dire, una specie di esecuzione. Dal punto di vista della legge, la legittima difesa fa una differenza abissale, cioè nel senso che a questo punto l'accusa è davvero, rischia di essere omicidio volontario, perché la legittima difesa, ricordiamo, è una difesa che uno deve compiere nel momento in cui è in pericolo la propria vita, cioè si trova di fronte uno. Però, per carità, sono questioni, non so, legali, che lasceremo al processo, se mai ci sarà. La questione sostanziale è, come si chiedono molti giornali, ma tu stai dalla parte di questo pensionato, cioè anche empaticamente, oppure dici no, non lo so, vediamo. No, empaticamente sicuramente sì, anche se il pensionato, per esempio, ha fatto una cosa che ha lasciato tutti un po' perplessi, cioè quando c'è stata quella piccola marcia di solidarietà sotto le sue che si è affacciato per salutare, forse era una cosa che, come scriveva ieri, l'amico Gramellini, poteva evitare, non lo so. Però è chiaro che di fronte a situazioni di questo genere, io in questo momento sono in casa mia, se mi entrasse qualcuno in casa con l'intenzione di farmi del male o di rubare ai miei familiari, è chiaro che si sta dalla parte una pistola per caso. Tutti vabbè, poi lasciamo stare i politici che cavalcano sta cosa, Monica, ma questo lo fanno, vabbè, è normale, ti sei anche esercitata su questo, no? Perché in questi 2 giorni parlano tutti di sparare, i leghisti vogliono dare i buoni pistola. Buon anno. Sì, quello che portava le soglie al Parlamento. Sì, vabbè, ma lui è famoso perché fa queste cose. Ma per fortuna che esistono, altrimenti io non lavorerei. No, vabbè, insomma, dai. No, io devono esistere per tutta la vita, perché se no io sono finita, capisci? viva, come definirli? Viva questi spettacolini, ecco, diciamo così, perché sennò niente. È il tutto. Che poi rappresentano un po' l'Italia. Posso dire anche io una cosa seria? Oppure mi prendete solo per quella che cazzo? No, dimmi. Ah, meno male. Ok, no, volevo dire la mia su questa cosa. Io penso che ci sia un elemento che probabilmente poi in sede di tribunale viene giudicato, però, che è l'elemento psicologico, cioè che cos'è quando è che uno si sente in pericolo? È questo il punto, cioè uno non può sentirsi solo in pericolo se uno gli punta una pistola, no? Questo sì, però adesso ripeto, non dobbiamo fare del processo, ma se è sulle scale esterne, carità, e lui ha sparato dall'alto verso il basso, in questo caso, in questo caso per me ha sbagliato punto e basta, quello è un omicidio e punto. Però no, io parlo in altri casi, no, in cui, perché ci sono stati dei casi precedenti, e magari allora quello era di spalle, gli ha sparato di spalle, quindi se era di spalle, diciamo, non era in pericolo di vita, però è un po' soggettiva la situazione. Ah no, ma è chiaro, ma infatti processo per processo va verificata poi. Ci fu il caso del tabaccaio di Milano, che sparò, se non ricordo male, sparò 3-4 colpi dentro il negozio, inseguendo poi e uccidendo uno dei due, e poi fu sentito dire ne ho beccato uno, no? Questo signore fu credo giustamente condannato per un anno e otto mesi, insomma, quindi poi non... No, ma insomma è chiaro che è molto dibattuta la questione. Io vorrei però chiedere, visto che ho qui un direttore, tra l'altro su Oggi ieri c'era il Papa in copertina, è il numero che anche adesso in edicola, se non sbaglio, caro Bognano. Hai visto che il sesto senso. Il sesto senso. L'ho chiuso lunedì prima che ci fossero le rivelazioni. Solo che a me questa cosa poi che è uscita ieri sul Giorno, effettivamente, per carità, il direttore del quotidiano nazionale Andrea Cangini, che dice, che ha scritto ieri questa notizia che ha fatto il giro del mondo, cioè il Papa avrebbe un tumore benigno al cervello, non lo so, un pochino insospettisce, nel senso che oggi viene fuori che questo professor Fukushima, che l'avrebbe curato, forse in realtà si è andato solo a un'udienza generale, forse gli ha stretto solo la mano, è anche, vabbè, uno indagato per mazzette a Salerno, ma questa è un'altra vicenda. Ma tanto, da direttore tu l'avresti pubblicata questa cosa, cioè come si fa a verificare una cosa del genere e verificarla al 100%? Guarda, io nella mia ormai lunga vita ho fatto tanti scoop, qualcuno anche non riuscito. C'è una cosa da dire, che non sempre si hanno tutte le conferme o le verifiche che tu vorresti avere. Allora, a un certo punto puoi decidere di rischiare. Io credo che sia stato questo il caso, credo che Andrea Cangini abbia avuto tutta una serie di verifiche che però non erano definitive, non erano ultimative, no? E quindi abbia rischiato una cosa che in realtà si sta rivelando una classica polpetta avvelenata. Dici. C'è un film in questi giorni, credo proprio nelle sale, quello con Robert Redford, si chiama Truth, Verità, che racconta lo scoop che la CBS fece 10 anni fa, 11 anni fa, rivelando che George Bush aveva brigato per non andare a militare in Vietnam. Sì, sì. La CBS lanciò questo scoop pazzesco alla vigilia delle elezioni americane che avrebbero potuto stroncare la carriera di Bush. Non passò neanche qualche minuto che subito su internet cominciarono a circolare le smentite, perché questi documenti che la CBS aveva mostrato sarebbero stati falsi. Risultato: la giornalista e il grande Dan Rather, che era il conduttore di questa trasmissione CBS, furono cacciati. Chiaro. Voglio dire, è chiaro che l'America si gioca. È il paese del Watergate, ma anche sì, il timore che adesso non si sa più dove sia la verità, ecco, questo è perché ieri c'è stata una smentita terribile, molto dura e molto secca da parte del Vaticano. Di sicuro, Alessandro, come cerchiamo di spiegare appunto nel numero che tu hai citato, c'è un grosso movimento sotterraneo contro questo Papa e contro le riforme, la rivoluzione forse sta facendo. Come no, come no. E anche questo falso o mezzo falso scoop, secondo me, può far parte di questo movimento. Forse sì, però facciamo così, andiamo al traffico, poi rientriamo, siamo con Umberto Brindani, direttore di Oggi, e Monica Raucci, che insegue i politici per la gabbia di Paragone sulla 7. Tra poco vi diremo che, attenzione, arriva il carcere, udite udite, cari signori, il carcere, ormai in carcere non ci va nessuno, si dice in Italia, invece sì, se non pagherete il canone della RAI potreste finire in carcere. La colazione dell'italiano: cappuccio, cornetto e traffico a volontà. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Buongiorno caro Milan, guardi che noi siamo in un far west, per la gente comune, per la gente che tutti i giorni lavora, che vive in Italia, è un far west e non abbiamo difesa, abbiamo dei giudici ipocriti che difendono i delinquenti. Ciao Milan, lo sai, per me Renzi è come lo sceriffo di Nottingham, ruba i poveri per dare ai ricchi. E la sua politica è come suonare un violino, si impugna con la sinistra e si suona con la destra. Signor Marino, scassato un cazzo, ma basta, non facciano più pagliacci, lascia piglia, lascia piglia, la capitale non ha più bisogno di te, vatti a Genova. Renzi a Roma non mi vuole più, ma io la poltrona non la lascio più. Dai resisti, yellow submarine, il sottomarino, sottomarino. Io l'ho detto anche ieri e spero, ribadisco anche oggi, che Marino resista. Siamo entrati nel giorno 2 dell'era della resistenza mariniana, la resistenza mariniana. Così per vedere l'effetto che fa, ho detto, non per altro, non parteggio, ma voglio vedere l'effetto che fa. Caro Umberto Brindani, cara Monica Ravucci, così. Monica, che effetto fa lì a Roma? Si parla di Marino per strada? Che ti dice la gente? Della gente dice l'immortacci tua. Ecco, va bene, mi sembra un editoriale, esatto, stringato. Sì, ecco. Sì, sì, esatto. No, io però non sono tanto d'accordo, perché lui ha fatto delle cose... Purtroppo le persone non sono... No, ma per carità, ma il mio non è un giudizio politico, è perché voglio dire, è il 2 novembre, cioè è per vedere un po' di casino il 2 novembre, nel senso che oggi, tra l'altro, il Fatto Quotidiano fa il calcolo, si devono dimettere in 25 consiglieri e del PD sono in 19, quindi se si dimettono tutti del PD e nessun altro... per fare magari un po' di bagarre, vengono sostituiti 19 del PD da altri consiglieri e si va avanti così, quindi potrebbe succedere questa cosa, insomma, vabbè, vediamo. La verità, Alessandro, se tu non vuoi fare a meno di Marino, perché ci dà un po' di soddisfazione, ci dà del materiale, l'ultima per esempio, che non era mia moglie ma una che ti assomigliava, la trovo meravigliosa, no? Sì, esatto, ho cenato ma non era mia moglie ma un assistente che le somiglia tantissimo, è fantastica. Comunque, sentite qui Renzi, l'hai mai inseguito, Monica? Renzi? Si fa è blindato? Sì, no, l'ho seguito. Però non mi danno molta soddisfazione questi qua, capito? Cioè, allora, all'inizio la politica la facevo l'inseguitrice seria, no? Un po' come Bertassoni, così, no, per carità, lui è bravissimo, quello di Santoro, però cercavo di imitare questa roba qua. Però questi qua poi non ti danno soddisfazione, ti danno soddisfazioni altri personaggi. Cioè, quando scopri che veramente la politica non è una cosa seria, allora lì ti diverti sul serio. Un po' di disillusione. Sentite, però, sì, ieri racconto questo, Renzi, ieri Renzi è andato a Lilli Gruber a 8:30 e ha parlato della legge di stabilità, ovviamente. Meno tasse per tutti. Posso dirla berlusconianamente così. Sì. Meno tasse per tutti. La differenza è che lui l'ha messo su un cartello, su uno slogan elettorale e se n'è andato. Cioè, poi se n'è dimenticato, è rimasto lì, non è che se n'è andato. Noi lo stiamo facendo. Brindani, ma dobbiamo credere a questa cosa? Meno ci sono meno... No, perché sorridi? È vero, non è vero? Avevamo creduto a quella di Berlusconi? Tu ci avevi creduto, almeno tasse per tutti? All'inizio aveva detto tolgo le tasse, poi alla fine, insomma, dopo vent'anni di fasi alterne, direi Parlando seriamente per un secondo, io adesso al di là degli slogan, io credo che lui, ma chiunque fosse al suo posto, al posto del Presidente del Consiglio, non potrebbe che ridurre le tasse. Cioè, voglio dire, non è una cosa per cui bisogna celebrare Matteo Renzi sta facendo quello che qualunque premier in questo momento è obbligato a fare, perché altrimenti questo paese non ha nessuna speranza. Quindi io penso che per una volta bisogna credere al fatto che glielo faranno fare, sì, lo farà lui, sì. Quindi, tagliare le tasse, perché poi è la speranza di tutti gli italiani. Ma com'è la storia dell'andare in galera se non paghi il canone? Ma perché non lo paghi? Non lo so. Perché tra l'altro oggi avremo il sottosegretario Giacomelli alle 8:15 e è passata questa cosa, cioè diventa non più un reato, andrà in bolletta e non è più un reato amministrativo con sanzione amministrativa, un reato fiscale con la sanzione, ma un reato penale. Questa cosa mi terrorizza, devo parlare con mia moglie se lo paghiamo o no. Verificare un attimo. Monica, tu lo paghi il canone? Sì, no, ma io lo pago anche volentieri, forse questo è impopolare perché io guardo 200 trasmissioni, completamente dipendente. No, vabbè, lo paghi quindi, no, perché attenzione, si rischia il carcere. Vi lascio con Brunetta è la cronista distratta. Brunetta, ciao. Onorevole Brunetta, l'Europa ha promosso però questa legge di... Non ha promosso assolutamente niente, lei veramente non studia e non legge, oltre che arrivare in ritardo alle interviste. Il segnale orario vi è offerto da... stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Alessandro Milan, che leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. 24 mattino. E allora, cari amici, alle 7:18 minuti siamo qui, faccio l'appello come ho fatto ieri: se stasera non avete niente da fare, venite allo Zelig di Milano, locale storico del cabaret dove io, Leonardo Manera e tanti, tanti ovviamente compari di merende faremo Platone alle 21 allo Zelig di Milano. Vi aspetto, non c'è più tempo per dirvelo ancora, quindi fate voi. Eccoci qui, allora avremo il sottosegretario allo sviluppo economico Antonello Giacomelli ospite con noi, con Oscar Giannino, con me, dalle 8:15 parleremo di canone Rai, ovviamente, soprattutto di Rai che sarà, ecco, uno dei titoli oggi che troviamo tra poco sui giornali è il carcere per chi non paga il canone della Rai, forse un po' esagerato, comunque sarà un reato penale. Non credo che ci saranno frotte di italiani che riempiranno le gattabuie perché non hanno pagato il canone, però il dato di fatto è questo. E allora andiamo a leggerli questi giornali. È giovedì 22 ottobre, i titoli, il Sole 24 Ore apre sulla Ferrari che corre a Wall Street. E questo è il titolo di prima pagina, mentre il Papa è ancora un tema ovviamente molto alto dopo la notizia data ieri dal Quotidiano Nazionale sulla presunta malattia, tumore al cervello benigno, peraltro, del Papa. È perché la notizia ha fatto il giro del mondo, il Corriere della Sera, il Papa, falsità sulla mia salute. Anche il Messaggero, non è malato, veleni sul Papa, così la Stampa, il Papa sta bene, Francesco, l'ombra del complotto. Anche il Giornale, Chiesa nel caos, chi vuole morto il Papa. Avvenire, l'informazione è malata, il Papa invece sta bene. Ovviamente il Quotidiano Nazionale o l'edizione del Nord del Giorno invece ribadisce, Papa malato, ecco i riscontri. Questi sono i titoli principali. C'è chi invece sceglie la politica con Repubblica, spese pazze, via dal governo, la PD Barracciu. Mentre eccolo qui, chi non paga il canone Rai rischia di finire in galera. È il titolo di Libero di prima pagina. Il Fatto Quotidiano invece, via libera agli affitti in nero. La legge di stabilità cancella l'obbligo di pagare i canoni con bonifico. Questo è il titolo molto forte. Partiamo appunto dal Papa. Allora, c'è questo giallo. È diventato dal Papa malato al giallo sul Papa malato. Dopo la secca smentita del portavoce Vaticano, per la verità lo stesso Papa in persona ha smentito la malattia, come racconta Pagina 2 del Corriere della Sera, raccontano Fabrizio Caccia e Margherita De Bacca. Un suo conoscente, dopo l'udienza generale, Francesco in persona, ha detto: è tutto falso. Che cos'è il giallo? Il giallo è legato a una visita del professor Takanori Fukushima, neurochirurgo giapponese che da anni è consulente della clinica privata San Rossore in Vaticano. È vero che c'è stata questa visita, ma fanno sapere dal Vaticano, è arrivato a fare una visita, ha partecipato come tantissime persone all'udienza generale e ha semplicemente stretto la mano al Papa, nulla di più, non lo ha mai visitato. In verità il Quotidiano Nazionale mette i riscontri sarebbero questi, secondo il direttore Andrea Cangini del Quotidiano Nazionale. La casa di cura conferma il viaggio. Il chirurgo Fukushima è stato in Vaticano a gennaio. È vero, è stato prima nell'udienza generale a ottobre, ma poi a inizio anno è tornato in Vaticano e in questa seconda occasione avrebbe visitato il Papa. Papa malato, ecco i riscontri, il Papa sta bene, basta polveroni, dice la Santa Sede, ma la Santa Sede ha fretta di chiudere. Questa è la posizione del Quotidiano Nazionale, che dice non è vero che non c'è stato nessun consulto, lo stesso professor Fukushima è vero ha smentito consulti, ma sul suo blog il medico aveva fatto riferimento a due incontri. Il primo è nell'ottobre 2014, quando scrisse ho potuto incontrare Papa Francesco. Poi a gennaio 2015 era giunto in Vaticano in elicottero, aveva dormito in un convento vicino e il giorno successivo aveva incontrato alcuni arcivescovi e il cardinal Comastri. Insomma, il dato di fatto è che adesso c'è questo giallo. Il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, è molto duro nel suo editoriale di prima pagina dal titolo Il discredito è mortale. Scrive Marco Tarquinio: abbiamo imparato subito tutti a conoscere Papa Francesco, il suo modo familiare e diretto di comunicare, la semplicità e l'efficacia con cui riesce a far arrivare a chiunque i messaggi più complessi, tutta la profondità, il rispetto e la tenerezza dello sguardo cristiano sulla vita, la bellezza, la povera fragilità degli esseri umani e del creato. Tra le cose di cui siamo certi, c'è che se il Papa fosse malato lo sapremmo da lui stesso e non attraverso una qualche fumosa e acre fuga di notizie. Il problema, scrive il direttore d'Avvenire, è che in questo caso non è stata violata la sfera personale di un uomo famoso, ma la verità. Lo rende chiaro la limpida serie di smentite senza se e senza ma arrivata dal Vaticano e dagli Stati Uniti, dove il medico opera abitualmente. Hanno voluto titolare che il Papa è malato, mentre anche questo triste caso conferma che nel nostro paese è l'informazione ad essere malata, malata di pressapochismo, di presunzione, di sensazionalismo manipolatorio. Questo è il direttore di Avvenire nel suo editoriale. Certo, poi c'è il giallo a dire a questo punto se fosse una bufala. Bisogna usare tutti i se del caso. Chi ha voluto spargere questa notizia per forse anche avvelenare la conclusione del sinodo che deve decidere cose importanti dal punto di vista della Chiesa, come per esempio dare o no la comunione ai risposati? È proprio in questi giorni, dopo si lega anche all'outing di Monsignor Ciaramsa, che due giorni prima dell'inizio del sinodo ha detto sono monsignore e sono un teologo e sono gay. Adesso questa vicenda, insomma, il timore è che ci sia qualcuno che rimesti nel torbido per far uscire notizie che possono mettere in seria difficoltà la Chiesa. Questa almeno è la linea di Massimo Franco, anche nell'analisi a pagina 3 del Corriere, è la percezione di una trappola che mira a delegittimare Francesco. E vabbè, c'è anche questo ovviamente, c'è anche questo nella battaglia all'interno delle gerarchie ecclesiastiche. Voglio davvero saltare all'altra notizia di cronaca che ancora oggi è ben alta sui giornali, nel senso che ha un ampio risalto, ed è la vicenda di Vaprio d'Adda, dove il pensionato Francesco Sicignano ha sparato uccidendo un rapinatore che si è scoperto essere un albanese già espulso nel 2013. La ricostruzione, secondo i magistrati, comincia a essere più precisa, e cioè questo albanese non sarebbe stato ucciso in casa, ma sulle scale della villetta fuori. Ecco allora i dubbi sulla versione del pensionato. I PM dicono il ladro è stato ucciso fuori dalla casa perché non ci sono tracce di sangue in casa, non ci sono neppure segni di effrazione. Questo è nell'articolo di cronaca del Corriere della Sera, ma lo trovate un po' ovunque. Ovviamente il giornale dice l'albanese era clandestino, già espulso per furti, rapine. E qui ci si divide un po' come si divide la politica, ci si divide anche sui giornali. Per esempio Mario Giordano in prima pagina di Libero è molto chiaro nel suo stare dalla parte di Francesco, in questo caso è il pensionato Francesco. Oggi ancora più di ieri, scrive Mario Giordano, dopo aver letto e sentito i sofisti del giorno dopo, i commentatori con le chiappe al caldo, quelli che si perdono in mille distingue e pretendono di spiegarci le buone maniere da usare coi ladri che entrano in casa. Scusi, perché si è introdotto nottetempo nel tinello di casa mia? Le manca forse il sale per la minestra? Fra l'altro, scrive Giordano su Libero, veniamo a sapere che il ladro entrato nella sua villetta è un albanese con numerosi precedenti, già espulso nel 2013. Non doveva stare in Italia come Cabobo, l'assassino col piccone di Milano. O il marocchino che ha ucciso David Raggi a Terni, solo per uno sguardo di troppo. Invece no, È difficile essere buoni quando si ha paura. Il pensionato Francesco di paura ne ha avuta tanta. Adesso sono tutti lì a cercare di buttare ombre su di lui, screditarlo, descriverlo come giustiziere solitario. Le pene le dà lo Stato, sentenziano. Infatti lui non voleva dare pena a nessuno, voleva solo dormire tranquillo nella sua villetta. Insomma, per Giordano queste sono le follie buoniste e la vittima diventa il killer. Su questo ci si interroga molto, ovviamente. Ieri ho letto invece della dottoressa giudice antimafia Silvana Saguto e le sue frasi intercettate, un'intercettazione ambientale quando si è chiusa in macchina, ha telefonato, quindi no, intercettazione telefonica, nei confronti dei figli di Paolo Borsellino, che peraltro la dottoressa Saguto conosceva personalmente, aveva appena celebrato in uno degli eventi antimafia, e poi si è chiusa in macchina e ha detto di Paolo Borsellino, di Manfredi Borsellino, il figlio, è uno squilibrato, e della figlia Lucia Borsellino è una cretina. Oggi Repubblica con Salvo Palazzolo va a chiedere conto a questo giudice, che è già sotto processo per un'altra vicenda, sotto processo, sotto indagine, mi correggo, e questo giudice dice: non mi scuso di nulla, francamente non ricordo queste frasi, sa quante telefonate faccio alle mie amiche? Sono brandelli di conversazioni estrapolate da contesti più ampi. Io, guardi, ho conosciuto Paolo Borsellino, dovevo cenare con lui e la sua famiglia 2 giorni dopo l'attentato di via D'Amelio. Non erano giudizi pubblici miei. Scusi, ma lei ha pronunciato quelle parole, le pensa? Ma non ho niente contro i figli di Borsellino, magari ci possono essere stati atteggiamenti che non mi sono piaciuti. Non lo so, mi dica lei, ma io passo per una persona decisa e dura. Sono una persona che non indulge alla commozione e quindi non piango, non ho pianto neanche in via D'Amelio. Perché quel pomeriggio terribile un collega mi disse: non dobbiamo piangere per dar soddisfazione alla mafia. Sì, ma le sue parole, dare della cretina e dello squilibrato, hanno ferito la famiglia Borsellino. Chiede scusa? Ma perché dovrei chiedere scusa? Non ricordo di aver detto delle cose. Ma guardi che l'intercettazione della Guardia di Finanza è chiarissima. Sono brandelli di conversazioni. Singolarmente lette possono avere significati fuorvianti. Vabbè, singolarmente letto. Tra l'altro, di questa giudice Silvana Saguto si scopre sempre da intercettazioni che avrebbe comprato una laurea al figlio. Questo almeno è il titolo della stampa. La giudice di Palermo compra una laurea al figlio. Pagina 17 della stampa. Il figlio del giudice antimafia sapeva che la sua laurea era una farsa. E non è giusto, diceva al telefono sua madre, perché gli altri sgobbano per prenderla e lui invece non ha faticato. Pure, secondo le accuse, la laurea al figlio falsa. Ma è questo l'articolo che ci fa tenere le mani sul volante se siete alla guida. Su Libero succede che un boss, presunto boss mafioso, Antonino Messicati Vitale, secondo l'accusa agli investigatori, capomafia emergente di Villa Abate, sia stato scarcerato per un cavillo, perché aveva nominato 2 legali, 2 avvocati, hanno mandato una notifica solo a uno dei 2 avvocati, all'altro no, e allora sono decorsi dei termini di custodia cautelare e il boss mafioso diventa libero. Per un cavillo. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Alessandro Miller, il Mario Giordano dell'informazione. Ma io non lo so, dai, ma insomma, dai. Vabbè. Allora, siamo qui alle 7:36 minuti, cari ascoltatori. Allora, ieri Matteo Renzi è andato da Lilli Gruber a 8:30 per parlare ovviamente di legge di stabilità. Tra l'altro, legge di stabilità, come ci chiedevamo qui ieri, che dov'è il testo? Se lo chiede proprio con il titolo di pagina 4, il manifesto, legge di stabilità, chi l'ha vista? Roberto Ciccarelli racconta: il testo non è arrivato alle Camere, a 6 giorni dall'approvazione il mistero è fitto. Ma che fine ha fatto la legge di stabilità? Al Quirinale ancora in serata non l'avevano avvistata, nemmeno in Parlamento il governo ha pensato di inviarla. Come tradizione, la limatura dei molti annunci e dettagli elencati nelle bozze ha preso tempo. Sergio Chiamparino, ad esempio, ha convocato stamattina le regioni per discutere della manovra economica, ma dovranno usare la fantasia per capire cosa c'è scritto. Cercasi disperatamente il testo e non le indiscrezioni, anche in Parlamento. Anche Brunetta, capogruppo di Forza Italia, ieri ha avuto un dubbio. Cosa ha approvato il Consiglio dei Ministri? Una copertina? Un titolo? Abbiamo grande dubbio che le tabelle mandate a Bruxelles non siano le stesse che arriveranno in Parlamento. Insomma, c'è il giallo intanto sul testo della legge di stabilità. Ieri Renzi è andato da Lilli Gruber, come ho detto, e ha parlato di tasse. Ha fatto riferimento a Berlusconi, stimolato su questo, lo dico berlusconianamente, meno tasse per tutti, solo che lui ha fatto lo slogan e se n'è andato. Noi lo facciamo davvero. Così dice Renzi, che poi ribadisce: comuni e regioni non alzeranno le tasse. Qui però vedremo sul Sole 24 Ore con Mauro Meazza che c'è il dubbio sulla cosiddetta super tasi sulle seconde case. Comunque il dato di fatto è che Renzi si sente sicuro di sé da questo punto di vista. Problemuccio al governo c'è per le dimissioni di un sottosegretario, il sottosegretario alla cultura, che si era già ritirata dalle primarie e dalla corsa alla regione Sardegna. Si tratta di Francesca Barracciu, che ha annunciato le dimissioni da sottosegretario ai beni e alle attività culturali e del turismo, perché è stata rinviata a processo per la vicenda, appunto, rinviata a giudizio per la vicenda di fondi ai partiti in Sardegna. Renzi dice: non l'ho chiesto io, ma apprezzo il gesto. C'è da dire che secondo tutti le retroscena è stata in qualche modo una vicenda gestita in prima persona da Luca Lotti, sottosegretario e molto amico di Renzi. Ne uscirò a testa alta, dice la Barracciu, pur confermando le dimissioni. L'articolo forse più interessante lo trovate su Repubblica, Mauro Lissia, pagina 11. I PM e i conti non chiariti, contraddizioni, bugie, eppure 3.600 euro al fidanzato. Questo si legge nelle accuse nei confronti di Francesca Barracciu. C'è una somma che la procura di Cagliari le contesta come peculato e c'è anche un riscontro documentale. Sono 3.600 euro che il 1 febbraio 2010 escono dal conto del gruppo del PD e finiscono in una società, quella del fidanzato, Evolvere SRL, una società con sede a Cagliari, fa capo a un imprenditore, Mario Luigi Argentero, che è il compagno della Barracciu stessa. Evolvere si dovrebbe occupare di formazione professionale, ma quei 3.000 euro più IVA risultano essere il saldo di un servizio di buffet organizzato a conclusione di un seminario politico. Peccato che a leggere le carte del procedimento il seminario non si sia mai svolto, quindi neppure il buffet. E di quella stessa società la Barracciu era stata amministratore unico fino al 30 settembre 2004 per dimettersi non appena eletta nel Consiglio regionale della Sardegna. Sospetti invece sull'uso dei 77.293 euro richiamati nel capo di imputazione firmato dal PM Cocco, che ha condotto il giudice Lucia Perra a disporre il giudizio con l'accusa di peculato aggravato e continuato. Dunque 77.293 euro sospetti e questi 3.000 più IVA, 3.600, che sarebbero finiti nella società del fidanzato, dai fondi del gruppo del PD alla società del fidanzato. Questa è l'accusa, ovviamente, è tutto poi da provare, per carità. Intanto un sindaco invece può archiviare la propria vicenda processuale. Luigi De Magistris, l'avevamo detto ieri, c'era il giudizio d'appello e c'è stata l'assoluzione. Per la verità, se anche non ci fosse stata l'assoluzione, ci sarebbe stata la prescrizione. Comunque, De Magistris è stato assolto in appello, non sarà dunque sospeso, rimane sindaco. È stato scagionato con l'ex consulente della procura di Catanzaro, quando lui era PM a Catanzaro, Genchi, sul caso Why Not, per delle intercettazioni. non aveva comunque rinunciato alla prescrizione, scrive il Corriere della Sera. Comunque c'è stata l'assoluzione, dunque il caso è chiuso in appello per Luigi De Magistris. Non è chiuso il caso di Ignazio Marino. Ogni giorno, io lo dico, mi auguro davvero, per vedere l'effetto che fa, di entrare nell'era della resistenza mariniana. Siamo al giorno 2, il giorno fatale, la linea definitiva è quella del 2 novembre. Entro quel giorno lui dovrebbe confermare le dimissioni che ha annunciato, ma ha 20 giorni di tempo per ripensarci. E pare davvero giorno dopo giorno che possa fare una clamorosa azione di forza. E cioè dire: io me ne vado, ma solo se mi sfiduciano in consiglio comunale. E il fatto con Tommaso Rodano fa sapere a pagina 4, intanto, che il PD non ha i numeri, perché per cacciar via Marino servono 25 consiglieri dimissionari. Il PD dispone di 19 consiglieri in consiglio comunale. Quindi, se non c'è l'appoggio delle dimissioni di SEL, Movimento 5 Stelle, Lista Marchini, insomma di altri, con 19 consiglieri non basta a far saltare Marino, ci vorrebbe una mozione di sfiducia. E comunque tutti i giornali raccontano proprio l'ultima trappola, sentite qui, l'ultima trappola di Marino. Il PD dice: eviteremo il voto in aula, ma Marino vuole andare proprio alla conta. Secondo il Messaggero è pronto alla pugna, un po' come Sansone, muoia Sansone e tutti i filistei. Insomma, Marino pronto a dire: non mi dimetto e vedremo in consiglio comunale. Secondo la Stampa, Fabio Martini, il punto è anche politico. Marino vuole un riconoscimento dal Premier, altrimenti potrebbe candidarsi alle primarie. Insomma, Marino dice ai suoi: a questo punto il PD si decida a riconoscere il duro lavoro fatto in questi anni e i risultati raggiunti, perché io sono una persona responsabile, altrimenti fa trapelare l'idea di candidarsi alle primarie come sindaco. Staremo a vedere. Eccoci qui con Mauro Meazza. Buongiorno, caro Mauro. Buongiorno, buongiorno. Allora, avevo fatto ancora un biglietto per me per stasera, per lo Zelig. Sì, certo, certo. Non è che spaccio biglietti così. Ah, ecco, bene, grazie. No, volevo dirti innanzitutto, scusa Alessandro, mi scusi gli ascoltatori, non l'ho comprato poi la Ferrari. No, non l'hai comprata. Beh, l'azione, voglio dire, no, la macchina. Ecco, no. Ecco. No, anche perché non mi hai dato i 2 euro ieri. No. Quindi non è che posso sempre anticipare tutto io, caro Alessandro. Anche perché... leggendo da quello che si capisce della legge di stabilità, sì, prima ricordavi che come il testo è soggetto a limature, che è una formula elegante per dire che lo stiamo sistemando, ho scoperto che appunto c'è questa supertasi che incombe su di noi e anche una supertari. Certo. E nessuna delle due è prematurata, mi risulta, come diceva tanti anni fa quella famosa battuta del film, però sia la supertasi che la supertari sono lì che ci guardano, specialmente la Supertari. Se legge Gianni Trovati oggi sul Sole 24 Ore, pagina 7, vedrai che per gli immobili diversi dalla prima casa ci sarà appunto questa Supertari, questo rischio di Supertari. E per tutti c'è la Supertari, è quella sui rifiuti, per capirci, sì, per uscire dalle sigle. O poi altre questioncelle sulla legge di stabilità, ad esempio il bonus mobili dovrebbe andare anche a coppie conviventi more uxorio. Quindi deve essere abbastanza liberale nel suo approccio, per così dire. Comunque, noi, per continuare a studiare le anticipazioni sulla manovra, ti proponiamo anche oggi, e spero che tu sia vestito in modo acconcio, certo, la guida. Sei vestito in modo acconcio? Ho messo il papillon oggi. Hai messo il papillon? Il papillon può andare bene, perché oggi parliamo delle partite IVA. Come sai, le novità. Ah, e quanto sono finite? No. Ma vabbè. Questa battutaccia, no, che ma perché non mi dici niente, non mi dici niente dell'Inter che batte il Milan, e io insomma ho cercato, sì, di darti un assist. Ci siamo aggiudicati un trofeo molto prestigioso, mi risulta, davanti a Spalti Gremiti, addirittura. Sì, immagino. Non so, io purtroppo ieri sera ero preso a cercare la legge di stabilità, ma non l'hai trovata. So che le partite IVA, che cosa ci dite? No, le partite IVA ci sono cose importanti, perché c'è il nuovo regime per i cosiddetti minimi nel senso del fatturato, non è un giudizio sulla persona. E poi ci sono altre riduzioni in arrivo, quindi tutta da vedere questa guida alla manovra, che ospitiamo nelle pagine, dillo tu, che Norme e tributi. Oh, benissimo. E oggi ti voglio insegnare anche un'altra sigla, BRRD. BRRD. BRRD, sì. Bene. Bank Recovery and Resolution Directive. Ti piace? Sarebbero le regole sui fallimenti bancari. Dobbiamo recepirle. Non potevi dire regole sui fallimenti bancari. Però se si chiamano così non è mica colpa mia. Mica lo... Tra l'altro una cosa che fa brrrr sui fallimenti bancari a me fa un po' venire i brividi. Sì, esatto. Ma se tu leggi le pagine di finanza, cosa che devi fare come sempre tutti i giorni doviziosamente o consigliosamente, scoprirai che siamo un po' in ritardo con il recepimento, ma come ti ammonivo già ieri, ci sono delle perplessità da parte delle banche medesime. Poi oggi sempre sul Sole 24 Ore, Casa 24, le pagine di Casa 24, so che sei sempre molto interessato, e molte altre cose, tra cui ad esempio anche un chiarimento, tornando alla legge di stabilità, sulle clausole di salvaguardia. Un po' spariscono, però un po' restano. Potrebbero esserci ancora questi due punti di aumento IVA che incombono dal 2017. Ma tanto ti basti. Altro non ti vuol dire, caro Alessandro. Traffico! Stufe e caldaie Termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Alessandro Milan, le occhiaie dell'informazione. Abbastanza, hai ragione caro ascoltatore. Allora, alcune notizie, una di politica. Oggi Berlusconi vede Angela Merkel dopo quattro anni, perché Berlusconi al vertice del Partito Popolare Europeo a Madrid, viene, forse no, va a San Siro a vedere il Milan, ieri c'è stato il trofeo Berlusconi, forse no. Oggi Virginia Piccolillo racconta che è un incontro politico, al di là dell'incontro politico in sé, è anche in chiave italiana, perché Berlusconi, vedendo Angela Merkel, vuole in qualche modo riaccreditarsi come leader del centrodestra, ed è in qualche modo anche una presa di distanza da Matteo Salvini all'interno della futura forse coalizione di centrodestra. Comunque interessante questa lettura dell'incontro Berlusconi-Merkel. Veniamo a qualche notizia di cronaca. Sergio Rizzo ci informa sul Corriere della Sera che c'è un progetto in Italia per ampliare il numero dei casinò, perché i casinò per ora sono a Sanremo, San Vincent, Campione d'Italia e Venezia, e nonostante siano in perdita e hanno accumulato perdite per un bilancio di 314 milioni in rosso, c'è un progetto per aprire 4 nuovi casinò. Dove? Allora, in Toscana potrebbe aprire Montecatini, in Puglia Bari o Fasano. Tra Lazio e Campania se la batterebbero Anzio e Salerno, mentre il quarto sarebbe in Sicilia, con l'unica candidatura quella di Taormina, candidatura concreta. È davvero così? Apriremo altri 4 casinò in Italia pubblici? Ecco il piano raccontato da Sergio Rizzo a pagina 25 del Corriere della Sera. Voglio invece andare all'estero per raccontare quello che ha detto, suscitando molte polemiche, il premier israeliano Netanyahu. Ha fatto una ricostruzione storica sulle origini della Shoah, cioè lo sterminio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, e ha detto Netanyahu in pratica che Hitler non voleva annientare gli ebrei, pensava di espellerli, ma allora all'epoca in Germania c'era il Gran Muftì di Gerusalemme, dunque massima autorità religiosa per i palestinesi, che aveva protestato: ma così verranno tutti qui? E allora Hitler gli disse: che devo fare con loro? Bruciali. Questa ricostruzione, quindi il suggerimento, sarebbe venuto a Hitler da parte del Gran Muftì di Gerusalemme. Questa ricostruzione è stata smontata dagli storici dell'Olocausto, come racconta Davide Frattini a pagina 16 del Corriere della Sera, criticata anche dall'opposizione perché il premier in questo modo minimizza il ruolo dei nazisti. La stessa Angela Merkel, il portavoce Angela Merkel, ha detto: sappiamo bene qual è stato il ruolo invece della Germania. Insomma, tutta una ricostruzione storica, secondo gli storici, falsata da parte del premier in questo momento di tensione, che però viene rilanciata, lo faccio vedere anche sul Corriere della Sera, lo faccio vedere in diretta su Periscope, e anche addirittura l'apertura, questa, la prima notizia del quotidiano Il Manifesto, che in questo momento non trovo sotto mano, eccolo qua, lo andiamo a recuperare. Il Manifesto in prima pagina titola così: la revisione di Bibi, cioè di Bibi Netanyahu. Questa revisione storica che è finita su tutti i giornali, non solo italiani ma anche internazionali. Oh, io dovrei raccontare, ma titolo, c'è solo il titolo di questo vigile, come racconta il Secolo XIX. Ci sarebbe un vigile urbano a Genova, sampdoriano, tifoso della Sampdoria, che avrebbe multato per questo motivo, finita la partita, durante la partita del Genoa, quindi dei cugini, 74 multe. Poi si è vantato su Facebook, il vigile doriano che si vanta delle multe alle moto dei rossoblù. Ma voi vi rendete conto? Vi rendete conto? Ma non è questa la carta costa. La carta costa è una pagina del giornale. Sabato c'è la giornata mondiale della pasta. Il mondo unito dalla pasta asciutta. Una pagina intera, signori! Ma chi se ne frega! Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Ladies and Gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccolo qui l'esplosivo potentissimo, Oscar Giannino, eccoci, buongiorno. L'esplosivo potentissimo, caro Alessandro, cari ascoltatori, dei nuovi arresti che apprendiamo. Quello è quello, vero, dire. È vero. Quando vi dicono la spesa pubblica è incomprimibile, voi rispondete che ogni giorno i nuovi arresti ci dimostrano che fine fa la spesa pubblica. Sono stati arrestati dei dirigenti dell'ANAS e anche un politico, ex sottosegretario. In questo momento il nome non si sa. Comunque tra i reati, oltre che la solita corruzione, concussione eccetera, c'è voto di scambio, quindi il politico, c'è voto di scambio, per carità, diciamo sempre sono arresti, siamo garantisti, però, però ieri. Mi ha sconvolto apprendere dal Gazzettino la fine che facevano a proposito della spesa incomprimibile i carissimi sassi che servivano per le dighe foranee del Mose a Venezia, perché sono uscite le carte, perché oggi inizia un pezzo del procedimento, servivano al fatto che andavano dritti a Lugano tutti i soldi, cioè i sassi servivano, non è che i soldi dei sassi che erano carissimi, finivano tutti dritti a Lugano, la famosa nelle spesa banche, pubblica immagino, incomprimibile immagino. No, comunque l'arresto è di poco fa, di questa mattina, come abbiamo sentito nel giornale radio, arrestati alcuni funzionari, insomma, a corruzione. Sarà di destra o di sinistra questo sottosegretario alle infrastrutture, ex sottosegretario alle infrastrutture, non lo so. Vedremo. Facciamo il Toto Quiz, no, ma non è che ci divertiamo. Esatto, perché in realtà è uguale. Esatto. Allora, oggi avremo ospite per chiarire tutti i nostri e i vostri dubbi, cari ascoltatori, all'800240024, il sottosegretario dello sviluppo economico Antonello Giacomelli. Canone Rai, soprattutto Rai, canone Rai, di questo l'uomo che ha voluto tenacemente convincere Renzi nel mettere il canone Rai in bolletta. In bolletta, ti sarà già simpatico per questo. No, di sicuro, voglio dire, gli dirò sul muso cosa penso, che certo. È una tassa inaccettabile contro la quale organizzarsi. Parleremo di questo, parleremo della Rai. Oh, c'è sempre questa legge di stabilità, come ieri tu hai detto, caro Oscar, e il manifesto dice: ma chi l'ha vista questa legge di stabilità? Un altro giorno passato e altro interrogativo al capo dello Stato, perché siamo in un paese dove va bene che tutto è elastico, però non bisogna esagerare, anche perché nel frattempo apprendiamo che delle cose c'erano non ci sono più, entrano e si modificano. Per esempio abbiamo parlato del gioco qualche giorno fa, dovevano esserci 22.000, adesso invece diventano meno di quelle che ci sono oggi, quindi le norme si modificano per strada. Se non c'è un testo, effettivamente. Nella bozza che avevamo noi non c'era la norma che pare sia entrata, almeno di cui ieri Renzi ha parlato, quella che dice: aboliamo i mutasi e imponiamo a alcune regioni l'obbligo di non mettere nuove tasse fino al 31 dicembre. Sì. Nella bozza che abbiamo noi non c'era. D'altra parte, però, il Sole 24 oggi scrive che c'è la super tasi sulla seconda casa, quindi gli enti locali potrebbero agire lì, esatto. Quindi tasse più o meno. Ma il punto è che formalmente, signor Capo dello Stato, col massimo del rispetto, non puoi sostenere che il Consiglio dei Ministri l'ha approvata, e quindi formalmente dovresti chiedere che il Consiglio dei Ministri si riunisse di nuovo con un testo formale e approvasse quello. È una questione veramente importante, non è una polemica tanto per. Tra l'altro, ieri Renzi è andato da Lilli Gruber a 8:30 a sostenere c'è il taglio di tasse. Sentiamo un paio di passaggi. Uno sul taglio delle tasse, lo ha detto Berlusconi, ma noi lo facciamo. Posso dirla berlusconianamente così sì. Meno tasse per tutti. La differenza è che lui l'ha messo su un cartello, su uno slogan elettorale e se n'è andato. Cioè, poi se n'è dimenticato, è rimasto lì, non è che se n'è andato. Noi lo stiamo facendo. E vabbè, e qui rimaniamo sempre, Oscar, alle attese fiduciose. Alle attese fiduciose, attese però fiduciose. Segnaliamo ai nostri ascoltatori, quelli che vogliano capire meglio, numeri alla mano, se ha ragione o torto Renzi. Oggi c'è un editorialino sul Corriere della Sera di Alesina Giavazzi, numeri alla mano, che dimostra come questa grande cosa vantata dal governo, meno 23 miliardi di tasse, ricordatevi che in realtà è fatta dei quasi 17 miliardi di aumenti che dovevano scattare automatici di tasse in meno. Se levate quello e anche le più tasse che ci sono in legge di stabilità, le entrate da concessionari eccetera eccetera, dei giochi e così via, rimane meno tasse per 2,3 miliardi. Alesina Giavazzi, c'è anche la tabellina, non è né contro né a favore. Pur non avendo il testo, sono d'accordo con te. Da quello che Renzi ci dice, ricordatevi che non sono 23 ma 2,3, e guardatevi la tabellina. Uno dei punti sui quali invece la Lilli Gruber ha ribadito è pronto a uno scontro anche politico con la minoranza del PD, tra l'altro il Corriere racconta che ci sarebbe stata una cena semi carbonara di alcuni dell'opposizione del PD, i soliti Mineo, Dattorre, oltre a Fassina che è già uscito dal PD, Carlo Galli e così via. Esatto, è il punto del contante. Su questo Renzi, abbassare o meglio non cedere sull'aumento della soglia del contante a 3.000 euro, pare pronto alla fiducia. Gli italiani devono avere la possibilità di poter spendere i denari che hanno, e ce ne sono tanti, c'è un sacco di contante fermo, ce lo dicono le banche, ce lo dicono tutti gli istituti interessati, che sono bloccati perché c'è la preoccupazione che l'Italia sfavorisca e non agevoli i consumi. Ecco, questo è un punto importante, Oscar, perché lui ha detto più avanti metto la fiducia, ma questa del contante, io vedevo ieri la trasmissione, seguivo anche su Twitter, sai che ci sono le reazioni, su questo del contante fermo ci sono molte persone che hanno detto che vuol dire, cioè ci hanno mostrato dei dubbi, hanno detto ma che voleva dire con questo il Presidente del Consiglio? C'è tanto contante fermo, dice. No, lui si fa riferimento, come al solito, a questa cosa che non butta giù, cioè che gli italiani in questi anni di crisi, quando pur avendo avuto un enorme calo del reddito disponibile, di quel reddito disponibile non hanno tradotto in minori consumi proporzionali al reddito che perdevano, hanno consumato ancora di meno e hanno preferito risparmiare in più. Sì. Questa cosa lui non la butta giù e dice voi dovete... È come la questione degli 80 euro, cioè li butto in consumo oppure no, me li metto allora, in banca, no? Senti, cioè, siccome gli hanno spiegato che questa roba derivava in larga parte dal fatto che comunque le tasse aumentavano, allora lui adesso dice bene, ve le levo tutte, proibisco dentro casa, e dall'altra parte dice vi levo anche il tetto del contante. Questa è la sua convinzione di fondo. Comunque su questo è pronto a porre la fiducia. Io credo che comunque politicamente questa roba del contante gli peserà. Anche secondo me, perché però paradossalmente dovrà trovare convergenze più a destra, perché è una misura che Berlusconi appoggerebbe se fosse al governo, che Salvini appoggerebbe. Per questo dico che gli peserà. Gli peserà internamente, però si sa che non ha mai fatto immagine pubblica, cioè sono cose. Però non ha mai fatto mistero di raccogliere i voti anche dai Verdini. Alessandro, non è possibile parlare di questi argomenti in punto concreto, perché ci si spacca per ideologia, perché lo sappiamo. Lo accuseranno di favorire l'evasione fiscale. Tant'è vero che se io mi metto a parlare di argomenti tecnici, no, tu sei a favore degli evasori. No, però per questo gli peserà politicamente. Senti Oscar, qui c'è la questione della presunta malattia del Papa, che a me ha molto colpito, perché oggi sui giornali è pieno ovviamente di reazioni sdegnate. C'è una reazione unica sui giornali. Una reazione unica, cioè a dire che questa è una bufala più o meno, o una polpetta avvelenata. Che tutti siano d'accordo che appunto è infondata, va bene, è così. Ma quello che mi colpisce è il direttore del Quotidiano Nazionale, Cangini. Però detto questo, quello che mi sorprende è l'univoca interpretazione dei giornali, che vengono dagli schieramenti più diversi, cioè dal Fatto a Repubblica, dal Corriere alla Stampa al Messaggero, c'è questa mobilitazione delle grandi penne la cui tesi è: lasciate stare il Papa, grande rivoluzionario innovatore. Chi parla di avvoltoi, chi parla di... Ma no, c'è la questione della coincidenza del sinodo, cioè più che altro a dire proprio nel momento in cui c'è il sinodo e soprattutto un Papa che presenta tante novità, che cosa si dice se fosse una polpetta avvelenata ha un tumore al cervello? Cioè come dire che tutto quello che fa non è dettato una grande lucidità? Dalle cronache del sinodo dei 13 gruppi in cui sono articolati i padri sinodali, cioè, sappiamo che non è nata una rivoluzione. Tant'è vero che, voglio dire, basta vedere le interviste anche del Marx, quello che mi sta simpatico, sì, il cardinale tedesco, sì. Non si è spinto avanti. Insomma, hanno parlato, c'è un ulteriore passo di sviluppo. Io temo che questa leggenda che vive sulla comunicazione italiana del Papa rivoluzionario che bisogna difendere sia un po' eccessiva. Non significa che non sia una bufala la notizia, non significa che non bisogna interrogarsi. Però trasformarlo in una specie di eroe dei nostri tempi contro i quali sono mobilitate le armate del male, mi sembra anche questo un'esagerazione. Il sospetto comunque è che banalmente questo professor Fukushima, neurochirurgo, sia andato in Vaticano per un'udienza generale nella quale ha incontrato il Papa, gli ha stretto la mano eccetera, e che questo, unito a evidentemente qualche testimonianza che il quotidiano nazionale deve avere raccolto, forse li ha buttati un po' troppo in là a pensare che ci fosse. Perché a me non sembrerebbe Cangini una persona che fa così questo. Ma tra l'altro sentiamolo, ieri si è difeso dicendo assolutamente che è vero. Cangini, direttore del quotidiano nazionale, è diventato famoso in tutto il mondo, perché la notizia è girata in tutto il mondo. Saremmo dei matti se a pubblicare una notizia del genere se non fossimo più che sicuri della sua fondatezza. Sì, dimmi. Noi, il suo Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, il quotidiano nazionale, non sono giornali che fanno speculazioni, che fanno operazioni politiche, sono giornali che danno le notizie. E questo è vero, cioè non è un giornale né scandalistico, non è un giornale, voglio dire. Ma poi lui non ha fatto una storia, un profilo giornalistico di essere, voglio dire, appunto un cacciaballe per tanto per fare un titolo, non lo so. Però evidentemente o può anche succedere di aver interpretato male dei dati, delle informazioni, però, può succedere. Ripeto, non quello lo sappiamo, che trovo ingiustificato, sbagliato e preoccupante è che tutti i giornali dipingano Cangini e i suoi giornalisti come gli strumenti di un complotto, come se fossero parte integrante consapevole di questo. Allora questa è un'esagerazione altrettanto grave come gli avvoltoi. Io in questo caso li difendo perché sì. Altrimenti ha una cosa che può essere, come abbiamo spiegato, anche un serissimo infortunio giornalistico, si risponde con una controffensiva che è fatta di chiacchiere distintivo, tutta ideologica. Allora, arrivano già le chiamate sulla questione canone e vorrei allora dare la parola a Santina dalla provincia di... Tra l'altro non c'è detto il santo di oggi, caro. San Donato. Ecco, Santina dalla provincia di Bergamo. Lei è Santina di nome e di fatto. Di nome e di fatto, ecco. Sì, guardi. Allora, una cosa, spero di essere sintetica. Sì. Io gestisco una piccola lavanderia. Sì? Non ho la rete fissa del telefono perché mi costerebbe troppo, il cellulare. Dovrei mettere un tablet e collegarmi a internet. Sì. Però io non ho tempo di star qui a vedere la RAI. Io il canone, anche pur non avendo la TV e avendo il contatore, lo dovrei pagare ugualmente mettendo un tablet. Guardi Santina, e collegandomi a allora, internet. Io da come l'ho capita io, ma tra poco stia con noi perché le risponde il sottosegretario Giacomelli dopo la pausa. Una risposta per tutti. Da come l'ho capita io, caro Oscar, il canone ora sarà legato al possesso della TV. La TV ha presente quello schermo, quindi non il tablet, non... Però lo chiariremo con Giacomelli. Meglio chiarirlo, perché se è così, sai. Quindi Santina, la sua domanda ce la teniamo, è molto preziosa e tra pochi minuti la faremo come prima domanda a Giacomelli, anche perché, caro Oscar, guarda come titolo oggi Libero: chi non paga il canone RAI rischia di finire in galera. Ora io non ci credo che ci siano persone che entreranno nelle patrie galere per non aver pagato il canone della RAI, però è diventato un reato, diventerà un reato penale. Che orrore veramente. Questo sì, reato penale. Ma che credi davvero che ci possa essere qualcuno che entra in galera per non aver pagato il canone? No, io penso che bisogna fare una cosa pubblica alla Gandhi, se è così. Andare tutti non so in galera. Se è chiaro, ripeto, la mia radicale contrarietà a questa storia del pagate tutti e state zitti, radicale, deriva dal fatto che una tariffa, il canone, diventa tassa di possesso e ora si riannega in una tariffa, elude ogni discussione sulla missione della RAI, irride a chi nota che è un sistema dei partiti, mira a avere più risorse pubbliche, non pubblica il nome delle star e neanche dei dirigenti di questo lo chiediamo, a Giacomelli. Se ci vogliono mandare, mi metto nel mucchio in galera per protesta contro tutto di questi, mi aspetto all'inomila di avere te che mi porti le arance, non che mi ridi perché sono con gli evasori. E le arance sono garantite, sono già le arance messe sono garantite. Ma tu tanto hai detto che paghi il canone, quindi non vai in galera per questo. Quello in bolletta elettrica, quello non lo farò pubblicamente tutte le possibili opposizioni, perché non sono d'accordo. Allora, diamo gli Oscar. Santina, stia con noi, perché dopo la pubblicità Giacomelli risponderà a lei e ai tanti dubbi che abbiamo anche noi. Gli Oscar, però, gli Oscar. I nostri Oscar. And the Oscar goes to... Il mio velocissimo è a Sergio Rizzo del Corriere della Sera, che ci racconta che sebbene in Italia abbiamo già 4 casinò pubblici che perdono 340 milioni, credo, in totale, se ne vogliono aprire altri 4 casinò pubblici, amici di Montecatini, amici di Taormina, amici di Fasano oppure di Bari in Puglia e amici tra Campania e Liguria di Anzio, tra Campania e Lazio di Anzio e l'altra me la son persa, o Anzio o un'altra città, insomma vogliono aprire dei casinò, i casinò. Ma sai che questa storia dei politici che vogliono aprire i casinò è ricorrente nella storia italiana? Allora il mio invece, Oscar di oggi, va alla faccia tosta, incredibile, degna del miglior causa, dell'Agenzia delle Entrate, che oggi ispira un'altra pagina sul Corriere della Sera firmata da Federico De Rosa e Lorenzo Salvia, ottimi colleghi, nella quale l'Agenzia delle Entrate, non contenta della sentenza della Corte che ha proclamato illegittimi 800 suoi dirigenti e di aver chiesto in vano di confermarli, oggi piange perché dice dovremmo avere dei premi per trattenere in servizio i migliori. Questa è l'Agenzia delle Entrate e la sua faccia tosta. Doverosa riverenza all'Agenzia delle Entrate. Combattiamo assoluta faccia tosta con cui difende i suoi dirigenti illegittimi. Giudicati illegittimi, è vero, dalla Corte Costituzionale. Va bene, dopo la pubblicità, tra qualche minuto, il sottosegretario Giacomelli risponderà alle vostre nostre domande sul canone e altre cose della RAI. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Allora, caro Oscar Giannino, mentre è uscito il nome dell'ex sottosegretario che è stato arrestato, si tratta di Luigi Meduri, che è stato sottosegretario dal maggio 2006 al maggio 2008, è stato anche presidente della Regione Calabria negli arresti di questa mattina con i funzionari dell'ANAS, quindi si tratta di Luigi Meduri. Questo lo dovevamo. Vedo che guardando agenzie e giornali esce il suo nome coinvolto in indagini su opere pubbliche e informative date ai pubblici magistrati dal 2007 e così via. Quindi... Comunque alle 10.30 ci sarà una conferenza del procuratore capo di Roma, Pignatone, per chiarire tutti i contorni di questa vicenda, di questi arresti di questa mattina. Ma noi abbiamo... Era un sottosegretario alle infrastrutture con Di Pietro Ministro. Con Di Pietro Ministro. Allora, io voglio salutare Antonello Giacomelli, lo salutiamo, è il sottosegretario allo sviluppo economico con delega alle telecomunicazioni. Buongiorno Giacomelli. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno, mi consente di aprire la intervista con i complimenti per il Milan di ieri, che vedo a accenni di risveglio importanti. Perché è un interista sfegatato, Giannino, devi capire Giacomelli. Ma inizia col sale così mia. Sulla ferita. Mamma mia, ma per una vittoria nel trofeo Berlusconi dell'Inter, una roba veramente... Vabbè. È un commento non degno di lei. Va bene, andiamo avanti. Sottosegretario, allora, abbiamo come immagina tante domande. La prima però, non so se l'ha sentita, ce l'ha fatta Santina, che ci ha chiamato da Bergamo e ha detto: io ho una lavanderia, una piccola lavanderia, non ho la TV in lavanderia, non mi interessa la TV e vedere la RAI, ma devo mettere un tablet per le fatture, eccetera, e quindi il tablet forse è atto alla ricezione anche di video. Dovrà pagare il nuovo canone della RAI oppure no? Ce lo spieghi, questo è un punto fondamentale. No. No. Perché no? Perché rimane esattamente l'impianto della normativa che conosciamo, cioè è il possesso di un televisore che è il requisito. Noi anche solo se il tablet, testo... mi scusi, il tablet può ricevere filmati, sì. Può vedere la RAI online? Assolutamente, non solo il tablet, ormai insomma, molti device. Però nella norma che abbiamo introdotto abbiamo solo aggiunto una presunzione del possesso del televisore, che è il contratto di fornitura elettrica per l'abitazione dove si è residenti. Naturalmente questo è il presupposto in futuro per prendere in esame anche l'evoluzione tecnologica e quindi altri device, ma la norma attuale prevede che il requisito è il possesso del televisore. Del televisore, quindi non deve pagare il canone, non gli arriverà il bollettino a questa signora in lavanderia. No. Ma perché la titolarità di un canone elettrico, di un allacciamento, di una linea elettrica con uno dei diversi di centinaia di gestori che oggi offrono servizio in questo mercato liberalizzato dovrebbe essere la precondizione di presunzione di possesso di un apparecchio televisivo? No, non è la precondizione, è una seconda presunzione. Lei sa che il decreto prevedeva si presumeva il possesso dall'apparecchio, cioè dall'antenna, diciamo. Sì. Noi aggiungiamo una presunzione, che è il contratto di fornitura elettrica. Sì. È solo questo, ma il requisito rimane il possesso del televisore. Quindi saranno i cittadini a dover comunicare non ho la TV? Esatto, come oggi. Cioè dovranno farlo con una raccomandata, immagino. Dovranno farlo con delle modalità che stabilirà il decreto, però questo è già, diciamo, un po' regolato dal decreto sulle autocertificazioni. Sulle autocertificazioni sì, però la tesi, peraltro sostenuta anche da Assoelettrica, cioè dai gestori, che questa seconda presunzione, cioè l'allineamento con il servizio elettrico, si presta a impugnative, e ha secondo me un fondamento giuridico. Questo sono interessato a capire, esatto, perché Renzi ci rispose dicendo abbiamo trovato il modo per evitare le impugnative. Esatto. Ecco, allora ci dica qual è, perché questa cosa che nasce come tariffa, il canone, poi diventa tassa di possesso e ora si rinnega e si riannega in un'altra tariffa, effettivamente se uno va a vedere le sentenze accumulate dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale sugli incroci tra tasse e tariffe, ci sono i precedenti perché, come sa, chi gestisce il servizio elettrico già dice che ci sono troppi oneri impropri in bolletta, quindi ci sono delle sentenze accumulate. Quindi come fate a evitarla l'impugnativa? Perché non cambiamo l'impianto della norma, come le ho detto, l'impianto rimane quello della norma che già ha passato il vaglio della UE e della costituzionalità, cioè è il possesso del televisore il requisito, semplicemente il contratto di fornitura elettrica è una presunzione, quindi l'impianto normativo non cambia in assoluto. Io non credo che eventuali impugnative da questo punto di vista avranno successo. No, però diceva Oscar Giannino, voleva far capire, sottosegretario, che se mettiamo una tassa in una bolletta, il che è incostituzionale secondo moltissimi. No, non mettiamo una tassa in una bolletta. Diciamo, qui vanno distinte le due cose. Sì. La parte giuridica è quella che le ho detto, cioè il requisito non cambia, okay, l'impianto rimane lo stesso. La modalità di pagamento non credo possa essere oggetto di impugnativa, anche perché le faccio un esempio concreto per far capire chi è a casa. Anche perché nella bolletta sarà chiaramente identificato qual è. Sì, certo, ma per esempio, voi dite noi lo abbassiamo rispetto al livello attuale della tassa spacciata per canone, perché è una tassa, e lo portiamo a 100 euro, corretto? Nelle diverse rate sommate. Sì, 100 corretto, euro. Solo che non sono un giurista, ma ho la sensazione che per le recenti sentenze e pronunce sia una imposta. Benissimo, della Corte. Benissimo. Però mettendola. Non voglio addentrarmi in un terreno. No. Infatti ha perfettamente ragione. Ma detto questo, mettendola in bolletta elettrica diventano 114 e non 100. Perché? Perché la bolletta elettrica è assoggettata a una accisa del 14%. Vede, su queste cose qua, che naturalmente in tasca chi la paga. Perché non è così? Perché non è così? Perché la bolletta è la modalità di pagamento e la cifra rimane 100, non è maggiorata da niente. Le posso dire, perché siccome leggo con attenzione e seguo da anni l'evoluzione del dibattito sugli oneri impropri, questo è l'ulteriore onere improprio rispetto al prezzo dell'elettricità nella bolletta elettrica, che è sottoposto alla somma di tutte le imposte della bolletta elettrica. Quindi lo non dico, è sottoposto a nessuna imposta. Allora benissimo, allora lo dico per chiarire questo problema e per spiegare. Verificare, cioè, perché se dice così non deve essere sottoposto anche al 14%, se no diventano 114, e non verranno sottoposte, e questo ce l'ha chiarito. Rimane 100. Sottosegretario, per chi possiede una radio invece deve pagare il canone, chi ascolta solo la radio e non ha la TV? Beh, secondo me, chi ora al di là di quello che ascolta, ah, secondo me, no, però una cosa no, precisa. No, dico, secondo me non è importante quello che uno ascolta o come fruisce, il requisito rimane lo stesso, il possesso di un apparecchio atto a ricevere. Quindi anche la radio. Sì. Cioè, se, quindi radio, cioè, e TV. Questo non cambia, diciamo, rispetto ad oggi il requisito non cambia, questo voglio far capire. Sono esclusi al momento, poi l'evoluzione dei prossimi anni vedremo, ma al momento computer, tablet, smartphone sono esclusi. Ah, sono esclusi. Mi, le chiedo questo, chi ha una seconda... Faccio notare una cosa sulla presunzione. Sì. Io mi fa piacere chiarire gli aspetti su chi deve o non deve pagare. Certo. Che in base ai dati dell'Istat, il 97% degli italiani possiede un televisore. Diciamo che al momento non risulta molto, ecco, dal, non risulta dal io penso però, sottosegretario, che la presunzione di un apparato questa volta, siccome è legato a un obbligo diverso e soprattutto cambia la sanzione perché diventa un reato penale, vedrà che le iniziative nascono per forza. Abbiamo letto questo, che il testo non ce l'abbiamo. È un punto di rimente, è un reato, sarà un reato penale non dichiarare, evadere il canone, diciamo così. Certo, ma non perché non modifichiamo qualcosa, la esplicitiamo, perché il decreto del 2000 che riguarda la documentazione contabile dice già in modo chiaro che un'autocertificazione di un dato falso è un reato e ha conseguenze penali. E quanto si rischia? No, questo non lo so. Però è un falso in autocertificazione. Esattamente da anche questo. Noi diciamo semplicemente agli atti, perché dai giornali, scusi, i giornali hanno scritto, non abbiamo i testi, ci deve purtroppo perdonare, non è colpa nostra se il testo non lo produce. Perché i giornali hanno inseguito l'evoluzione. Prima era stata annunciata una sanzione, poi la sanzione è diminuita, è cambiata, eccetera, eccetera, si è aggiunto una modifica dell'attuale regime sanzionatorio delle autodichiarazioni. Questo è quello che abbiamo letto. No, allora, intanto la sanzione c'è già, non è che non c'è sanzione. Sì. La sanzione dice da 2 a 6 volte. Molto semplicemente c'era un'ipotesi del Ministero dell'Economia, che è competente, che diceva togliamo questo da A, mettiamo 5 volte e punto. Non è dirimente, diciamo, il Parlamento nell'esame della legge di stabilità deciderà se lasciare la sanzione attuale da 2 a 6 volte o se scegliere la forma 5. Quanto al resto, non è una novità, esplicitiamo in decreto che vale la regola del decreto, esplicitiamo in stabilità che vale la regola del decreto sulle autocertificazioni. Sì, quindi un falso un'autocertificazione è un reato penale. Io Stato prendo per buono la dichiarazione del cittadino, mi dici che non hai, benissimo, non ti arriverà il pagamento del... Però io ho due domande veloci, sottosegretario, poi le facciamo sentire anche Salvini, perché sa, da noi ha detto che fa la raccolta differenziata col canone. La prima, chi ha una doppia casa e quindi magari ha 2 televisioni, gli arriveranno due bollette? No, perché come dicevo il contratto di fornitura nell'abitazione dove si è residenti. La seconda domanda è questa, se mettiamo il caso io per 10 anni non ho pagato il canone, dall'anno prossimo lo pago in bolletta, che succede dei 10 anni che non ho pagato? Mi vengono condonati oppure... Diciamo così, purtroppo non succede niente, non perché sia un condono. Cioè non mi richiedono più i 10 anni prima? Beh, perché come dire... lei avrebbe, credo, buon gioco a spiegare che ha comprato quest'anno la televisione. E quindi è un condono di fatto, perché... No, non è un condono di fatto, è esattamente la fotografia della situazione attuale. Abbiamo un'evasione del 30% che è tollerata. Io penso che questo, in un paese normale, non debba accadere. Si può discutere, come fa Giannino, l'ho ascoltato con attenzione più volte, se sia opportuno, legittimo, giusto che vi sia un canone per il servizio pubblico. E questo è altro tema, però che si toglie un'evasione del 30%, io penso non sia giusto per quel 70% di cittadini onesti che pagano. E quindi questa è la ratio. Però, sottosegretario, ne abbiamo già parlato l'anno scorso. Sì. Però, sottosegretario, voi anno dopo anno un dibattito che rifondi agli occhi dei cittadini il senso della missione del servizio pubblico e che spieghi perché o possiamo avere un canone anche più alto, ma solo con un servizio pubblico senza spot BBC, possiamo avere una televisione anche commerciale spot, ma a quel punto senza canone come la Spagna, l'Olanda e così via. Però qua noi ci chiedete solo, pagate di più, questo è il punto, diciamo così. Però lei, siccome è intellettualmente onesto, dovrà dire quest'anno diciamo pagate meno, un po' meno, naturalmente, per quei 13 che hanno euro. Sempre pagato. Certo, gli altri. Io guardi, purtroppo, siccome seguo le coefficienti del mercato elettrico, così, io sono disposto a purtroppo scommettere che la cosa si rivelerà molto più problematica di quanto. Oh, lei lo so che è un sostenitore di questa idea. Anzi, lei forse probabilmente è quello di uno di coloro che più ha convinto Renzi nei mesi a questa è così? Idea. Diciamo, non è che c'era bisogno di convincere. Il Presidente del Consiglio era dell'idea di affrontare questo esatto, tema. Esatto, sì, però insomma, vai a qualche dubbio sull'impopolarità. Le varie che abbiamo esaminato, questa ci è sembrata quella certo. migliore e più efficace. Vogliamo sentirlo. Non priva di problemi? No, chiaro. D'accordo. Vogliamo sentirlo Salvini? Due giorni fa ha detto questo da noi, Che io dovrei pagare il canone Rai perché ho l'iPad? Secondo la legge, quindi lo paga o no? Lo paga? Ma non ci penso neanche. Che fa col bollettino? È la raccolta differenziata, la plastica con la plastica, la carta con la carta, il vetro con il vetro. Se io fruisco di un servizio lo pago. Sottosegretario, vuole commentare anche Fico, presidente Vigilanza Rai, ha detto il canone Rai. Preferirei non farlo. Perché? Ma però non ha la TV Salvini. Perché non è munito dei poteri penali. sono piccole furbizie. Intanto non ha detto che ha l'apparecchio televisivo, ha detto il tablet. Sì. Però in qualche modo indulge a questa voglia che c'è nei cittadini di evitare pagamenti di tasse, sono sempre una cosa un po' dolorosa e fastidiosa. Io penso che uno che ha responsabilità politiche nazionali non dovrebbe far questo, può criticare come è oggi gestita la RAI, può dire non serve un servizio pubblico, però ammiccare all'evasione io penso sia una cosa che è scorretta. Sottosegretario, posso chiederle una cosa? Sono solo i cittadini poi se lo seguono a pagare le conseguenze, non lui. E questo è in questo le do ragione. Secondo me chi invita, perché ci possono essere strategie politiche nelle quali si invita anche a fare resistenza attiva e dichiarata, non nell'oscurità dell'evasione contro le tasse. Però in quel caso bisogna essere pronti pubblicamente a subirne le conseguenze. Perché sono anche per. Non ho una posizione fideistica. Esaminiamola laicamente. Togliamo il canone? Perché no? Naturalmente. Se questa è una proposta della Federazione degli Editori della Carta Stampata e delle emittenti infatti private, lei ha ragione, in questo la seguo, perché è giusto che gli ascoltatori che non sono tenuti a seguire tutte queste vicende sappiano che una delle ragioni per cui la RAI raccoglie meno pubblicità e se vorremmo abolire il canone dovrebbe raccogliere di più è l'opposizione degli editori privati, questo è il punto. Sottosegretario, abbiamo un minuto, ci spiega perché ci sono dei dirigenti in RAI che ancora guadagnano più di 240.000 euro e perché non sappiamo i nomi, la privacy, la trasparenza nel servizio anche pubblico. Anche su questo, provo a usare 30 secondi, mi permetta di dire che fino ad ora molti hanno parlato della necessità di trasparenza, però la norma che impone di pubblicare i dati viene solo con questo governo. Quindi li sapremo? Conosceremo da quando? I nomi? La stabilità entra in vigore, appena la legge entra in vigore. Cioè i nomi di tutti gli stipendi in Rai? No, gli star, no, la Rai le star no. No, i nomi in che senso? No, le star, allora anche qui. E lo stipendio sì, però lo sapremo. Noi conosceremo esattamente di dirigenti di ogni livello della Rai la retribuzione. Perfetto. E di chiunque in Rai chiunque. Guadagna più di 200.000 okay. euro. Ok, e le star no? Ecco, le star. I contratti artistici, a mio avviso, sono un dato che va collegato al programma, mentre il ruolo del dirigente strutturale dura tutto l'anno. Ho capito, ma è sempre servizio pubblico pagato, giustamente stiamo dicendo pagate tutti e noi gli diciamo quanto diamo a questi qua per questi contratti comunque. Però ci dobbiamo fermare qui, sottosegretario, perché è stato esaustivo su tanti punti, ne sarebbero migliaia che vorremmo. Però solo TV, però, ha detto, solo le TV. Solo le TV, solo le TV pagano il canale, anche la radio, perché voi ascoltate la radio. Ha detto, ma adesso non lo so. Vabbè, dai, ci dobbiamo fermare con resistere, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e Peter Pescapè in regia. Domani.